Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 32. Hello and goodbye. Eccola, mio signore, a ore 9, la Persefone. Drago vide stagliarsi nell'argento del mare un possente animale metallico, bianco e azzurro. Le acque ribollivano di schiuma intorno alla pancia d'acciaio. Il pilota dell'elicottero virò in direzione della nave e prese a sorvolarla in cerchio. La sagoma della costa del Corno d'Africa era ancora visibile alle loro spalle. Un inferno vale l'altro. Cosa avrà sognato Mirko? Qualche cazzata sicuramente, spero. È proprio quello di cui ho bisogno anch'io. Un po' di divertimento. Ho bisogno di ridere, cazzo. Premetti il pulsante dell'interfono. Va bene, seguila fino a Mogadiscio. Stiamogli sopra come avvoltoi, ridacchiò. Il borbottio cupo dell'elicottero accompagnò a lungo l'enorme pesce meccanico. Quando l'ombra del Chinook oscurò lo scafo, Mirko fu l'unica persona in tutto il continente africano a rabbrividire nel caldo. Continuava a volargli sopra, non poteva che essere lui. Si accomodò a prua, sorseggiando un martini e scrutando la costa somala che si avvicinava all'orizzonte. Andava tutto bene, ma quell'ombra gli dava fastidio e fu felice quando vide il Chinook allontanarsi verso la costa. Forse non era stata una buona idea chiamarlo. L'euforia della crociera lasciava spazio alla solida, stolida crosta terrestre. Non era sicuro che il socio avrebbe apprezzato il suo stato d'animo. Drago non era mai stato un tipo sentimentale. La Persefone gettò l'ancora un poco al largo del porto. La stazza non permetteva di avvicinarsi troppo alla costa. Ocelot, dall'estremità del molo, seguiva con un binocolo l'arrivo dell'amico. Riviera era a bordo di una lancia, con il volto nascosto dai cespugli incolti degli ultimi mesi selvatici. Quanto tempo era passato? Sembrava tranquillo, ma lui, a quanto pare, la rabbia se la portava ancora in tasca. Forse perché era da solo, solo contro il mondo, contro il suo mondo. Se neanche Mirko gli avesse fatto provare ancora un briciolo di amore per la razza umana, allora le cose non sarebbero state facili, né per se stesso, né per tutti gli altri. Riviera aveva un'espressione rilassata e divertita sotto quell'arruffo di peli biondastri. L'aria del naufrago gli donava. Sembrava un vecchio marinaio dopo la traversata oceanica in barca a vela in solitaria. Ora che era più vicino, Ocelot riusciva a distinguere l'espressione semi-alcolica. Si issò sugli scogli e, agitando le braccia, gli urlò: «Ma non odiavi i posti caldi?» Mirko ci mise un po' a riconoscere l'amico, ma il marinaio che reggeva il timone del fuoribordo, udita quella voce, non ebbe un solo attimo di esitazione. Mollò la presa e si prostrò così rapidamente sul fondo della lancia che Mirko dovette reggersi alle maniglie di sicurezza per non rotolare fuori. L'elica era uscita dall'acqua e roteava a vuoto, affettando l'aria e lanciando schizzi salati su Riviera, che se la rideva come un matto. L'afferrò e con un'inaspettata perizia accostò la lancia al molo. Spense il motore e lanciò una fune a Drago, camuffato sotto una parrucca rasta. Per un attimo gli era sembrata una collezione di code di gatto. Per la seconda volta dovette appigliarsi a qualcosa prima di cadere in acqua dal ridere. Dove hai ucciso quella cosa?» domandò, indicando la parrucca. «E tu? Ti sei mai fatto la ceretta negli ultimi mesi?» Ocelot allungò il braccio e salvò il naufrago dalle acque. Furono abbracci e pacche sulle spalle, seguiti da grasse risate. Quando il marinaio si rialzò guardandosi intorno confuso, Mirko gli disse di salutare ancora una volta per lui le amiche rimaste sulla nave. «È da tanto che non torniamo qui. Non pensavo che ci sarei tornato tanto presto. Forse era destino», disse Drago togliendosi la rasta parrucca. Cosa hai fatto tutto questo tempo? Io ho camminato. Riviera era euforico. Avevo iniziato senza sapere esattamente dove andare e ho scoperto che è vero che non importa la meta. È il viaggio. Solo che a un certo punto ho iniziato a sentirmi perso. Troppe mete, nessuna meta, sai. E poi ho fatto quel sogno. Ha a che fare con Magdalena, te la ricordi? Figurati se non c'entrava qualche figa, disse Drago. Non so, in realtà non rientra tanto nel mio target abituale. Sai com'è, gallina vecchia fa schifo. Sì, appunto. Forse sto invecchiando anch'io. Comunque non c'entra quello. Nel sogno riuscivo a parlarci senza avere la sensazione che prima o poi avrei cozzato contro la barriera del Devil. Sai come succede, vero? Succede perché la rimappatura degli spin neurali è permanente. Un piccolo effetto collaterale per entrare in paradiso. Sì, sì, però ti toglie tutto il gusto. Voglio dire, le prime volte è fantastico, lo sai. Piovevano da tutte le parti, ricordi? Ma dopo inizi a cercare quello che non c'è più. Un cervello con delle opinioni proprie. Tanto per non avere la sensazione di dover dividere il letto con un chihuahua, ma con qualcuno in grado di stupirti. Ho capito, preferivi prima. Non dire cazzate, io non tornerei indietro per nulla al mondo, ma... Ma sì, credo di capirti. Io mi sono ridotto a chiamarti per avere un cervello con cui parlare alla pari. Alla pari lo dici tu. Bastardo, esclamò Drago ridendo e avviandosi verso la jeep che lo aveva portato fin lì. Riviera lo seguì guardandosi intorno senza smettere di parlare. Insomma, ecco perché il sogno è importante, o almeno lo sarà finché non saprò se lei è o non è decerebrata come quanto le altre. Tu sei sempre il solito povero illuso. Le tue aspettative e la realtà stanno agli antipodi, ecco perché sei sempre stato male. Non ti aspettare troppo da lei o finirai come al solito, depresso e rompicoglioni. Non sei simpatico. Mai stato. Cosa ti sei perso in nave? Mai quello che ti sei perso tu nelle catacombe. Ci stavo da Dio finché non... Aspetta, tu non sei niente? Disse Ozelot fermando la mano sulla maniglia della portiera. Di cosa? No, non sai niente. Dai, non farti pregare, di cosa non so niente? Il nero e il pescatore sono rimasti schiacciati sotto un bulldozer. Mirko si attorcigliava i capelli su un dito, perplesso. In che senso, scusa, hanno fumato troppo? Sicuramente è l'ultima cosa che hanno fatto. Il bulldozer era vero. Hanno trovato frammenti di cuffie tra le cartilagini e i vari ossicini dei padiglioni auricolari. Deve essere stata una bella morte, tutto sommato, rapida e musicale. Ci sono stati i funerali, ci sono andato anche io, neanche una settimana fa. Mi ha avvisato di ossido. Pessima idea, tra l'altro. Ma come? Dov'era il bulldozer? Che facevano? Mirko aprì la portiera dalla sua parte. No, no, no. Lascia stare, non è importante. Cazzo, mi dispiace di non averli salutati per l'ultima volta. Io invece da quel giorno... Beh, comunque è bello vederti. Gli lanciò uno sguardo perplesso. Volevo dire parlarti. Parlare con un cervello? Già, si spera. Ozelot sorrise ed entrò nella jeep. Riviera salì a sua volta, continuando a parlare. Mi dispiace per loro. Io sono stato bene, sai. Non sono abituato a stare così bene. Sono in pace per la prima volta che mi ricordi. Sto solo cercando la ciliegina sulla torta, sai, quella che neanche sei sicuro che esiste. Ma che se esiste, se la trovi, allora puoi davvero morire tranquillo. E diossido, lo hai visto? Che fa? È presissimo a tessere la madre di tutte le reti. Sguazza nel suo elemento naturale che è un piacere. Oh, meglio così, non mi va quando pensa troppo. Diventa strano e finisce che litigate. Allora, ti ricordi da che parte si va per la tua signora? Certo, prendiamo la strada principale e chiediamo per lo stadio. Astuto, ma hai notato che è tutto piatto? Cazzo, lì c'erano le case, le baracche, era pieno. È vero, non c'è più niente, neanche una trave. Non avevo collegato... Ma la strada è ancora lì, la seguiamo. Con questo, ti ricordi del GPS, sì? Il ventunesimo secolo, la rete globale, hai presente? Carichiamo una vecchia mappa, impostiamo lo stadio come destinazione. Preferisci il tragitto breve o veloce? Guido io odio gli autisti saccenti. Anch'io, specie se romani. Come? Niente, bada alla strada. Hai visto? È tutta savana, o come cazzo si chiama. Dove hanno messo la città? Boh, sottoterra, credo. Ma non c'è nessuna apertura. Da noi si vedono gli ingressi in superficie e gli occhi di vetro che portano la luce sotto, ma qui è tutta terra rossa e cespugli di robaccia. Non c'è più nessuno. Fra un chilometro, all'incrocio, gira a destra. E gli alberi? Non c'erano anche delle piante? Ma che ti aspettavi, che lasciassero tutto così com'era, per ricordo? Ma non c'è niente. È molto zen. Lo apprezzo. Forse era l'unico modo di rendere giustizia a questo posto, dimenticarlo, rimuoverlo, seppellirlo sotto se stesso. Ma la strada porterà da qualche parte? Lì c'è l'incrocio, dove ci avevano inseguiti i cani, ti ricordi? Gira a destra. Ma sì, guarda laggiù, c'è qualcosa. Lo vedo dal binocolo. La sagoma è la sua, ma c'è qualcosa di diverso. Vedi i movimenti? No, nessun segno di umani. È piantato lì come una ciambella nel deserto. Hanno lasciato solo quello. Ma in Somalia ci sono leoni? Altamente probabile che in Africa si trovi qualche leone. Allora è altamente probabile che quelli che ho visto laggiù, dove inizia il verde, siano felini locali. Laggiù? Sono lontani e forse anche spaventati dal rumore della jeep. Guarda, è tutto ricoperto di piante. L'entrata è sgombra, ci infiliamo dentro in macchina e siamo al sicuro. Chissà se ci sono rinoceronti. Piantala, Otimollo, qui. Guarda, è tutto ricoperto di fiori, come i giardini pensili di Babilonia. Ma che cazzo è successo qui? Hanno lasciato lo scheletro dello stadio e ci hanno fatto crescere sopra una foresta. È fantastico, guarda, vedi quel cespuglio di fiori azzurri che si muove? Sembrerebbe che non siamo poi soli, vedi? È lei. No, socio, mi dispiace. A meno che non abbia lavorato fortemente sul suo aspetto, quello non mi pare proprio una piacente signora dai capelli rossi e pelle di latte. Dammi quel binocolo. Ah, cazzo, ma è Bashi! Sì, ci ha visti, però io in quella giungla non ci entro. Già mi pizzica il naso. Bashi, vecchio mio! Sempre bello rivedere il tuo faccione! Urlò Riviera spalancando la portiera e balzando fuori dalla macchina prima ancora che Ozelot avesse frenato completamente. Aspetta, dove corri? Oh merda, la parrucca! Questo posto è fantastico, irriconoscibile. Sei stato tu, vero? E Magdalena, c'è anche lei? Bashi, ma come fai a passare qui in mezzo? Sei rimasto uguale, ti ricordi di me? Certo, mi ricordo del te senza tutti quei peli, sì. I tuoi occhi sono gli stessi. Sono onorato di ricevere ancora la tua visita. Non sono solo, vedi? Eccolo lì. Ti ricordi di lui? Hai capelli diversi, ma... Il desiderio del senza nome si è avverato. È stato fatto il giardino fiorito, disse Bashi, inchinandosi all'arrivo di Ozelot. Come? Mi avevi già riconosciuto la prima volta che sono venuto qui? Avevo riconosciuto un dio che non voleva mostrarsi ed esaudì la sua volontà. Ora vedo un dio che si sente solo e gli offro la mia devozione. Bashi, dov'è Magdalena? Ho sognato di lei, si intromise Mirko. Venite, seguitemi. Se calpestate le mie impronte sarà più facile. Tu hai fatto tutto questo per me e aspettavi che tornassi? Domandò Drago. Non vi aspettavo, mio signore. Per me eravate già qui con me. Non ho mai visto tanti fiori tutti insieme. Ma come fai a curarli? Voglio dire, siamo in Africa, mica in Olanda. Riviera raggiunse Bashi e lo superò, impedendogli di avanzare oltre. Dove sono andati tutti? E Magdalena? Anche lei sapeva. Non era sicura, ma ne parlammo a lungo. Eravate così diversi da come vi vedevamo in televisione. Solo gli occhi erano gli stessi. Nessun altro se ne accorse. Dopo che foste partiti, ci fu una riunione con gli abitanti rimasti. Durò poco, nessuno voleva più che restasse traccia del passato e delle sofferenze. Si decise di preparare un ambiente dove la natura avrebbe potuto rinascere, ripulita dai ricordi delle morti. Io fui d'accordo, sono vecchio. Qui ho tutto quello che mi serve, guardate. Non è il paradiso terrestre. Non mi interessa vedere il mondo. Volevo vedere rinascere il mio di mondo. Così mi aiutarono a costruire il sistema di irrigazione e a riempire di terreno lo stadio. Ogni palata di terra che gettavamo sul cemento era una palata di terra che ci veniva tolta dall'anima. Feci giungere i semi di piante da paesi lontani. Volevo rinnovare i colori di questo posto. Ho una cospicua biblioteca di botanica e anche se sono vecchio ho imparato a usare piuttosto bene i computer per trovare informazioni. Molti nuovi innesti sono nati da prove ed esperimenti. Lassù in alto ho un cannocchiale e con quello passo il mio tempo migliore guardando la vita che lentamente torna dove per noi ormai c'era solo morte. Ma dov'è? Magdalena è qui. Quella mattina stava lavorando al computer. Mi chiese di portarle una tazza di caffè. Quando tornai pensavo si fosse addormentata. Aveva la testa appoggiata su una spalla. Le misi davanti la tazza di caffè e quando guardai dietro i suoi occhi lei non c'era più. Ora riposa sotto questa acacia. Ha finalmente raggiunto la pace. Cazzo! Non conosco il significato di questa parola, ma dal suono direi che il concetto è simile a quello che ho pensato quando l'ho trovata così. Il suo tempo era giunto. La sua era stata una vita complicata, forse persino più della mia. Ma quale vita non è complicata, mio signore? L'universo è complicato, Bashi. Si deve morire per rinascere. Cazzo, merda, cazzo, perché? Quando è successo, Bashi? Credo che non siano passati più di 3 mesi. È stato poco prima della migrazione delle cicogne bianche. 3 mesi. Scusatemi. Io... Sì, tranquillo, tranquillo. Bashi, mi porti al cannocchiale di cui parlavi. Il mio amico ha bisogno di... Mio signore, il suo amico ha bisogno di ciò che non possiamo dargli. Non solo la vita, ma anche la morte sa essere complicata. Mostrami la vita che torna. Ne ho bisogno. Ogni giorno c'è un piccolo cambiamento, qualche ciuffo d'erba rada che improvvisamente colora la terra. Vedo piccoli animaletti, probabilmente talpe, scavarsi tane sotto il terreno. Sciami di api riempiono gli alveari intorno allo stadio e dopo di loro arrivano gli uccelli, verdi e blu, a caccia di insetti. Da qualche giorno una cucciolata di leoncini arriva al margine della vegetazione lì in fondo. Si fermano a giocare e si guardano intorno con gli occhioni sgranati. La madre li sorveglia restando al riparo, non si è ancora dimenticata dell'uomo. Quando i cuccioli si avventurano troppo allo scoperto, li richiama, ma sono sicuro che quei cuccioli un giorno saranno i primi a tornare. E non avranno paura dell'uomo ora? Sarà bello trascorrere i miei ultimi giorni guardandoli crescere. Vedere tornare questo posto come quando ero giovane e innocente. Bashi, se mai ho incontrato un innocente, quello sei tu. Mio signore, il mondo non è cattivo come sembra, anche quando sembra che non possa andar peggio. Il mio amico non ne sarà troppo convinto. Lui è sempre stato in balia di se stesso, come una zattera in mare, lasciando che le onde, le circostanze, decidessero per lui. Aveva trovato una rotta e ora si ritroverà di nuovo in alto mare. Mio signore, quale migliore bussola della sua vicinanza? Già, quale? Meglio che torniamo da lui. Grazie, Bashi. Grazie di cosa, mio signore? Vedi, certe cose semplicemente non si possono spiegare, vanno accettate. Consideralo pure un mistero della fede. È bello che ci siano misteri di questo tipo, mio signore. Il suo amico sta parlando da solo. È una lingua che non capisco. È la nostra lingua di origine. Scusa, Bashi, devo parlargli. Riviera stava spezzando in pezzi sempre più piccoli un ramoscello che teneva tra le mani mentre sibilava tra i denti. Come si è permesso quel coglione di fare un mondo come questo? Si diverte? Io so di conoscere un senso dell'umorismo malato. Socio, ascolta. Socio un cazzo, Drago. Ascolta un cazzo. Porca troia. Perché ogni cazzo di volta che le cose mi vanno bene, subito arriva la botta nei denti? Sarebbe stato peggio se fosse successo dopo, fra una settimana o un mese. E comunque, vecchio mio, tutti ce ne dobbiamo andare, persino noi due. Tu dovresti capirmi bene. Sei rimasto orfano, hai perso tutti, uno dopo l'altro. La trama di un film dell'orrore. Siamo un grande film di successo in qualche cineclub per sadici. Sì, da premio Oscar. Non è cambiato niente, è sempre un mondo dell'orrore. Vivi, se sei fortunato vivi a lungo e bene, e poi crepi. Peggio ancora, vedi crepare gli altri aspettando di crepare te stesso. Dimmi tu che cazzo di senso ha. Sono solo illusioni, Mirko. Cerca di guardare più lontano. La vita è un'illusione. Guarda cosa abbiamo combinato noi. Un pianeta intero preda di allucinazioni. Illusioni vissute come realtà. Ma almeno sono felici, liberi dai loro demoni. E noi invece? Tu sei felice? Non lo so, ti giuro che non lo so. Mi ha fatto bene rivedere Bashi, mi ha calmato. Guardarlo negli occhi è stato come vedere 1000 anni di tempo arrotolati sulla punta di un dito. Ultimamente ero un po' sfiduciato, sai, e nervoso anche. Ci sono ancora in giro certi scherzi di natura che pensavo che fosse stato tutto inutile. Ma forse il problema sono io. Dovrei imparare a essere più indulgente anche verso me stesso. Siamo solo umani, troppo umani, vero? Si fermò, afferrò con le mani due delle tante liane che penzolavano pigre dal cielo. Si guardava intorno, l'armonia di quel posto lo guariva. E tu? Sei felice, tu? Mirko, senza aprire bocca, lo affettò con uno sguardo obliquo. Io credo che sia ora di trovare la mia isoletta deserta e andare in pensione, continuò Ozeroth. Che la razza umana si fotta, io ne ho avuto abbastanza. Che si arrangino. Quando vorrò compagnia la avrò. Per il resto, let it be. Torno in Vaticano. Ho bisogno di riposarmi. Gli ultimi giorni sono stati troppo intensi. Magari chiamiamo un paio di amiche che ho conosciuto nelle catacombe, affascinanti. Poi raccolgo le mie robe e tolgo il disturbo. Vado a fare l'agricoltore. Tu cosa fai? Vieni? Io ero venuto qui solo per lei. Cosa resto a fare? Svigniamocela.